Cristina Trivulzio di Belgioioso, il 1848 a Milano e a Venezia. 1. L'insurrezione milanese, il governo provvisorio, i corpi ausiliari. Ho visto addensarsi le nubi dell'uragano che si è abbattuto sui principi e poi sui popoli italiani. Ho sostenuto con tutte le mie forze chi si prodigava per chiarire agli italiani di ogni condizione sociale e di ogni regione quali fossero gli interessi comuni e per infondere in tutti fiducia. Ho visto rinascere in loro il coraggio, aprirsi la loro mente, prendere forma le loro decisioni, ne ho condiviso le speranze e con loro sono scivolata verso un abisso da cui soltanto con uno sforzo disperato ci potremo ritrarre. Gli avvenimenti attraverso i quali l'Italia è passata, da prima di conquista in conquista, di successo in successo, poi di sconfitta in sconfitta, di umiliazione in umiliazione, restano avviluppati in un mistero così fitto. Le loro cause e conseguenze sono così poco chiarite, la loro stessa successione appare così bizzarra e le circostanze così strane, che è quasi impossibile farsene oggi un'idea esatta e darne quindi un giudizio sereno. Per questo cercherò di raccontare i fatti di cui sono stata testimone, lasciando ad altri il compito di spiegare quelli che non saprei interpretare in modo abbastanza convincente. C'è una domanda alla quale occorre anzitutto dare risposta. Com'è possibile che nel secolo in cui viviamo e nella parte del mondo in cui abitiamo, la storia d'Italia continui a costituire un enigma? Non è ormai senza veli in Europa ogni avvenimento pubblico? Esistono ancora cause segrete? Possono ancora restare nascosti motivi di atti che riguardano tutti? La storia d'Italia manca di unità perché l'Italia stessa ne è sempre stata priva. Non abbiamo un'unica storia in cui tutti gli episodi, raggruppati attorno a un nucleo principale, tendano a uno scioglimento comune. Ci sono invece parecchie storie distinte, sebbene contigue e correlate, in modo abbastanza stretto da non permettere che una possa sussistere autonomamente. Ora, la narrazione storica è sempre più o meno soggetta alle leggi che regolano i poemi drammatici. E non c'è modo di rendere chiaro e avvincente un dramma privo di organicità. La difficoltà, tuttavia, non sta solo in questo, o per meglio dire, questa prima difficoltà ne genera altre. Tra tutti i popoli d'Europa, quello italiano, dotato di una naturale sottigliezza d'ingegno, ha dato i natali ai politici e agli statisti più accorti e scaltri. Le città italiane hanno sempre lottato le une contro le altre, non soltanto di potenza e di forza, ma pure di destrezza, con astuzia e talvolta con frode. Ci si immagini Machiavelli contro i Borgia, oppure Galeazzo Visconti o Ludovico il Moro alle prese con i principi di Casa Savoia, oppure Andrea Doria di fronte ai grandi uomini della Repubblica Veneta, oppure i Bentivoglio in conflitto con gli Ezzelino, i Montefeltro e della Rovere. Poi si decida se sarebbe lecito illudersi di conoscere davvero vicende che simili uomini, avendovi legato il proprio nome, abbiano avuto interesse a travisare. Supponiamo che una persona potente e accorta abbia avuto qualche parte in un avvenimento. Nessuno potrà più farsene un'idea precisa. Che avverrà allora se c'entrano il Papa, tutti i principi della cristianità e i più astuti politici del tempo, ognuno con un suo interesse? Per provare la fondatezza di questa osservazione vorrei fare l'elenco di tutti i personaggi che ebbero occasione di contrasto con la corte papale. Si vedrebbe allora che la storia li ha classificati eroi o tiranni a seconda che si siano mostrati pronti a inchinarsi alla Santa Sede oppure risoluti a resistere alle sue ambizioni di dominio. Non si ripeterà mai abbastanza che in Italia ci sono tanti interessi diversi quante sono le città, quanti sono gli uomini chiamati a difenderli. E così nascono altrettante versioni differenti dei medesimi fatti, altrettanti schemi interpretativi cui quei fatti vengono piegati e costretti a conformarsi. Il grado di sviluppo raggiunto dall'informazione pubblica in Europa da mezzo secolo a questa parte ha reso in certo modo ancora più impenetrabile l'oscurità che da sempre avvolge la storia d'Italia. Soltanto un anno fa i governi italiani e i loro sostenitori fruivano ancora in esclusiva del privilegio di rivolgersi all'opinione pubblica attraverso la stampa. Il cittadino, patriota e liberale, che avesse avuto l'idea di contestare le mendaci asserzioni della polizia austriaca o di una delle molte polizie che ne dipendono, avrebbe corso immediato pericolo di andare a espiare il suo eccesso di audacia sulla paglia di una cella carceraria. Le nazioni straniere, la Francia, l'Inghilterra e la Germania liberale, sapevano abbastanza bene come si dovessero giudicare le persone cui l'Austria lasciava la facoltà di scrivere delle cose politiche italiane. Ma chi si rifiutava di prestar fede alle loro affermazioni doveva, in assenza di testimonianze sincere, rinunciare a farsi un'idea di quello che accadeva effettivamente nella penisola. I meglio informati, in definitiva, erano proprio coloro che confessavano di non saperne nulla. Chi invece credeva di tenersi al corrente, leggendo opere pubblicate in Italia, prendeva per veri fatti radicalmente falsi e accettava come equi più iniqui giudizi. Il velo che nascondeva all'Europa i problemi italiani divenne ancora più fitto quando un simulacro di libertà di stampa prese forma in Italia e gli interessi contrastanti che da tempo si agitavano sordamente nella penisola apparvero allo scoperto. Il popolo e i suoi amici, la parte liberale, marciarono con ardore, con coraggio e franchezza alla conquista dei propri diritti, senza troppo badare ai tranelli tesi dai loro nemici comuni. Di quell'ingenua fiducia approfittò il partito legato allo straniero, il partito retrogrado e assolutista, che diffondendo notizie calunniose si diede a seminare la discordia tra il popolo e coloro che si erano costituiti i suoi difensori, e a travisare caratteri, intenzioni e atti degli avversari dell'Austria, in modo che i liberali non si riconoscessero più tra loro e le nazioni straniere li privassero di ogni stima e di ogni simpatia. Ho assistito, l'ho già detto, al dramma che si è appena svolto in Italia, alla catastrofe le cui conseguenze ora pesano su quell'infelice paese. Percorrendo la penisola da un capo all'altro, ho sentito narrare in 100 modi differenti fatti di cui ero stata io stessa testimone. Arrivo in Francia e trovo in circolazione nuove versioni che si distaccano dalla verità tanto da renderla irriconoscibile. Come si potrà redigere la storia di quello che è accaduto? Come si farà a scoprire, di qui a qualche secolo, la ragione e la portata di avvenimenti presentati in versioni così diverse e tutte lontane dal vero? Appunto per fare un racconto esatto di quegli avvenimenti, prendo la penna. La mia testimonianza non sarà accettata oggi da tutti. Soprattutto troveranno comodo ricusarla quelli cui è poco favorevole. Eppure, presto o tardi, ci si accorgerà che ho riportato i fatti senza alterarli e che scrivendo non ho avuto per scopo il trionfo di una tesi preconcetta. La verità ha un accento che non si può simulare né quando c'è. Misconoscere. 1. La storia italiana degli ultimi 5 mesi include 2 ordini distinti di fatti. L'attenzione pubblica è stata attirata sia dall'esistenza del governo provvisorio di Milano, sia dalle operazioni dell'esercito piemontese. 2 centri di interesse che sarà bene non confondere. Il governo provvisorio di Milano, nei mesi immediatamente successivi alla sua costituzione, ha avuto una parte nelle vicende italiane che merita di essere analizzata. Nel periodo più recente, quello che ha preceduto la capitolazione di Milano, il principale attore è stato con ogni evidenza l'esercito piemontese. Nella prima parte di questo studio vorrei soffermarmi sull'azione, poco conosciuta, svolta dal governo provvisorio. Agli inizi del 1848, a tenere gli animi in sospeso erano soprattutto le sorti di Palermo e di Milano. La città siciliana cercava di scrollarsi di dosso il giogo di un potere oppressivo, sebbene nazionale. L'altra si preparava a liberarsi da una tirannica e crudele dominazione straniera. Negli altri stati italiani sembrava che ci si avviasse lentamente, ma in modo sicuro, verso una condizione migliore. Torino, Firenze e Roma spingevano i loro governi sulla via del progresso. Ogni nuovo atto di violenza compiuto dal re di Napoli o dall'imperatore d'Austria suscitava dappertutto un moto unanime di indignazione. Il 18 marzo esplose la rivoluzione milanese. Tutte le città dell'Alta Italia risposero al segnale e i soldati austriaci, snidati da ogni asilo e costretti a fuggire da una popolazione disarmata ma eroica, ripararono nelle loro piazzaforti già predisposte ad accoglierli. Mentre Milano dava battaglia nelle sue strade, a Genova e a Torino il popolo tumultuava davanti ai palazzi del governatore e del re, gridando di voler combattere. E già colonne di volontari si mettevano in marcia. Su Carlo Alberto si faceva una violenta pressione morale perché si risolvesse alla guerra. Il marchese Pareto, genovese, entrato nel nuovo ministero piemontese formato in quei giorni, aveva accettato l'incarico a condizione che si intervenisse in soccorso dei Lombardi. Le ripetute minacce austriache e il ben noto orientamento della popolazione piemontese avevano costretto il governo a prepararsi alla guerra. Bastò così dare un ordine e in 3 giorni di marcia l'esercito fu sotto le mura di Milano. Non entrò in città, peraltro, perché ormai le truppe austriache erano ben lontane, dirette verso Mantova e Verona. Queste due città avrebbero voluto e potuto chiudere le porte ai soldati di Radeschi e difendersi sino all'arrivo dei piemontesi. Le fortezze di Mantova e Verona ospitavano sì un presidio austriaco, ma troppo debole e sfiduciato per essere temibile. A serbare al maresciallo Radeschi quelle piazzaforti e le due minori che ne dipendono, quelle di Legnano e Peschiera. Intervenne la cospirazione permanente della viltà e del tradimento che durò tutta la guerra tra certi alti personaggi del Piemonte e forse anche della Lombardia. A Mantova fu il vescovo a correre per le strade, supplicando gli stupefatti cittadini di lasciare a lui la cura di sistemare ogni cosa con il capo delle truppe che stavano avvicinandosi. Asseriva che esse dovevano semplicemente prendere accordi con i soldati chiusi nella fortezza per abbandonare con loro la città senza arrecare molestie alla popolazione e senza esporsi a offese. A Verona furono alcuni ricchi aristocratici a scongiurare il popolo a nome del viceré arciduca Ranieri di non negare il passo a truppe che, avvilite e sconfitte, chiedevano soltanto di lasciare l'Italia nel modo più celere possibile. Il duplice inganno riuscì perfettamente. Mantovani e veronesi acconsentirono al passaggio delle truppe straniere e le accolsero con la sciarpa tricolore sul petto e il fucile in spalla, perché in entrambe le città la popolazione si era costituita in guardia nazionale. Appena furono dentro le mura, i soldati, gettata la maschera, dichiararono di non volersene più andare. La guardia nazionale fu sciolta, furono ristabilite amministrazione e polizia austriache. E il potere straniero cominciò a gravare le due sfortunate città con l'odioso sistema non più cessato da allora delle contribuzioni forzate. Da quel momento la posizione dell'esercito austriaco, padrone delle 4 più munite fortezze lombarde, divenne formidabile. Il compito di quello piemontese si era fatto invece molto arduo. L'entusiasmo e l'impeto estremi dei milanesi avevano facilitato la vittoria, ma ottenuta questa rimaneva da costituire un governo. Da 36 anni, da quando la dominazione austriaca gravava sulla Lombardia, l'impiego pubblico era precluso a quegli italiani che per doti di carattere o intellettuali vi si sarebbero potuti segnalare. Al popolo non restava che cercare capi e guide tra la nobiltà. È certo che non mancavano in Lombardia uomini in grado di guidare la nazione tra mille pericoli sulla via delle rivoluzioni e delle lotte verso la libertà e l'indipendenza, ma al popolo i loro nomi erano sconosciuti, mentre quelli delle famiglie nobili avevano fama da secoli e venivano subito in mente a tutti. Il popolo dovette, lo ripeto, orientarsi verso quelle famiglie. Tra i nobili lombardi, alcuni, non del tutto estranei alla vita politica, erano noti per il loro ossequio alla Casa d'Austria. Altri, che erano i più, mostravano da molto tempo una profonda avversione per il potere austriaco, ma, costretti proprio da questo sentimento a tenersi in disparte, conducevano vita frivola e dissipata e apparivano inadatti a conduzione della cosa pubblica. Così la nazione diede la sua preferenza, anzi la sua adesione tacita, ai più liberali tra i primi e ai meno frivoli tra i secondi. Il conte Casati era podestà di Milano da 6 anni, era stato cioè rieletto 2 volte a quella carica, segno palmare che era vissuto in pieno accordo con gli austriaci per tutto quel tempo. Il conte Borromeo, decorato del toson d'oro, aveva più di una mansione alla corte di Vienna. Entrambi, dopo essere stati fino al 1848 in buona armonia con il governo austriaco e con la polizia milanese, si erano fatti abbastanza audaci alla vigilia degli avvenimenti di marzo da sottoporre qualche osservazione al governatore conte Spaur a proposito degli atti di ingiustificabile brutalità che lui e i suoi colleghi consentivano o ordinavano in quei giorni ai militari croati. Il governo austriaco era allora in preda a una sorta di crisi nervosa. Ogni rimostranza e ogni opposizione, per quanto presentate riguardosamente, gli erano intollerabili. Subito, a Casati e a Borromeo, fu dato l'ordine di star zitti. Poi, senza lasciare loro il tempo di opporsi o di sottomettersi, si passò alle minacce, alle persecuzioni, al decreto di esilio e all'ordine di arresto. Non ho l'intenzione di sminuire il merito di Borromeo e Casati per la loro resistenza. Nelle poche settimane che intercorsero fra la loro rottura con il governo austriaco e la rivoluzione milanese, l'uno e l'altro diedero prova di coraggio e di fermezza, soprattutto il conte Borromeo, il quale continuò a rifiutarsi di lasciare Milano, nonostante ingiunzioni imperiose e ripetute. Tale era la posizione di due funzionari quando l'insurrezione travolse l'intero edificio dell'amministrazione austriaca, lasciando in piedi soltanto l'autorità municipale di cui era capo Casati. E così a Casati toccò la presidenza del governo provvisorio appena costituito. Il conte Borromeo si trovò pure, e per la stessa ragione, chiamato al potere. I loro principali colleghi furono il conte Durini, uomo di rara capacità nelle faccende amministrative, che era stato podestà, il conte Giulini, che era uno dei finanziatori della rivista europea e uno dei capi del partito, o per meglio dire della piccola scuola dei cosiddetti umanitari, e il conte Alessandro Porro, un giovane naturalista di vaglia che era collaboratore del conte Giulini, Beretta, un amministratore sagace ma notoriamente legato alla Casa d'Austria e al suo apparato, e il conte Pompeo Litta, figura distintissima. A loro vennero ad aggiungersi i rappresentanti delle città che, dopo aver cacciato gli austriaci come aveva fatto Milano, avevano dato la loro adesione al governo della metropoli, al governo provvisorio della Lombardia. Qualcuno, leggendo la lista dei componenti del governo provvisorio e apprendendo che si erano affiancati dai rappresentanti delle città lombarde, avrà forse pensato a una sorta di elezione popolare avvenuta a Milano e negli altri centri per attribuire il potere supremo a un certo gruppo di persone. Non fu così. Mentre il fragore dei cannoni, dei fucili, dei tamburi, delle campane che suonavano a martello riempiva l'aria, mentre la morte percorreva le nostre contrade ed erano in forse le sorti dell'Italia, le persone cui abbiamo accennato non fecero altro, almeno nella maggior parte, che recarsi a Palazzo Marino, distribuirsi le mansioni e spartirsi il potere. Hanno poi ripetuto spesso che in caso di vittoria austriaca le loro vite sarebbero state le prime a essere perdute. È ben certo che l'Austria avrebbe infierito su uomini che avessero assunto chiaramente l'atteggiamento e la funzione di capi rivoluzionari, ma si supponga invece che si fossero astenuti durante la lotta da qualsiasi provvedimento contrario agli interessi austriaci. È evidente che in tal caso avrebbero potuto giustificarsi di fronte al nemico vincitore, presentandosi come sudditi fedeli che si erano fatti avanti unicamente per assicurare il mantenimento dell'ordine e per placare il furore popolare. Non affermo che sia stato questo il pensiero dei membri del governo provvisorio. Tengo soltanto a sottolineare che il popolo non fu chiamato a sceglierli e che la loro causa non fu mai confusa con la sua. Il direttore generale della polizia, barone Torresani, era scappato con altri funzionari austriaci e si doveva riorganizzare tutto il servizio. Si esordì malissimo, mettendoci a capo un anziano medico padovano, poi precettore in una famiglia veneziana trasferitasi a Milano. Uomo vivace, ma di una vivacità superficiale e fatua. Non malvagio e incapace, penso di tradire, però fuorviato da una spropositata ambizione. Il posto avrebbe richiesto perspicacia, accortezza, energia, doti che è raro trovare ben fuse in una sola persona. Purtroppo meno di chiunque le possedeva il nuovo direttore della polizia milanese, il dottor Fava. Tra i rappresentanti che le città insorti avevano inviato alla metropoli, uno era ben noto a tutti per la sua devozione alla Casa d'Austria e un altro per le sue propensioni repubblicane. Quest'ultimo era il marchese Guerrieri di Mantova. Il primo invece era stato mandato dalla città di Como. Alle proteste di certi milanesi per questa scelta, alcuni cittadini comaschi risposero che conoscevano sin troppo bene le idee del loro rappresentante, ma che per fare parte di un governo occorreva avere molta pratica negli affari pubblici, e a Como c'erano probabilmente molte persone capaci, però nessuno le aveva viste all'opera, mentre il conte Rezzonico offriva garanzie di competenza. Il governo provvisorio contava inoltre più di un segretario e un gran numero di sottosegretari, gli orientamenti politici dei quali erano molto disparati. Pure tutti avevano un certo peso e tutti anzi esercitavano un certo potere. Uno dei segretari, Mauri, era uomo sensato ed ingegno, buona penna e cuore onesto, di probità a tutta prova, ma alle sue notevoli doti non univa né pratica amministrativa né esperienza degli uomini, né opinioni nette sugli articoli del catechismo politico, né infine vera fermezza di carattere. Mauri era adibito alla redazione dei proclami, degli ordini del giorno, eccetera, tanto che si autodefiniva il poeta della compagnia. Il motto era certo spiritoso, ma in fondo triste. Stava tutto lì l'utile che il governo sapeva trarre da un uomo dotato e di mente elevata. Uno dei colleghi di Mauri era Correnti, giovane e intelligente, con un'infarinatura di socialismo francese e di filosofia tedesca. Correnti era da parecchi anni la colonna portante della rivista europea, un mensile fondato sotto gli auspici della giovane aristocrazia milanese. Questa, per parte sua, vezzeggiava con continue attestazioni di simpatia l'elegante scrittore, che le assicurava una sorta di presenza di avanguardia sulla scena letteraria. Così, appena i nobili che avevano fondato la rivista arrivarono al potere, Correnti fu chiamato accanto a loro a occupare un posto ufficialmente secondario, ma in realtà importante. Introdotto nella sala del consiglio dai giovani patrizi che da tempo si avvalevano delle sue capacità di oratore e di scrittore, egli fu accettato dai membri più anziani del governo provvisorio come persona che avrebbe potuto continuare a svolgere, sotto il loro patrocinio, quel duplice ufficio. Repubblicano, Correnti aveva stretti legami con i principali esponenti di quel partito in Italia. Era inoltre uso a non discutere le sue idee, a supporle sempre buone e a non farsi scrupolo di esternarle. Dovesse tradurle in discorsi o in articoli o in atti. Sopra difficoltà di questo tipo si passava agevolmente. Si osservò che il credo repubblicano di Correnti era poi quello di Guerrieri e di Anelli. Quanto al suo spirito indipendente, ognuno si lusingava di poterlo domare. Mentre, per parte sua, Correnti si riprometteva di far valere il proprio ascendente sui colleghi e anche sui superiori. Nominare uno a uno tutti i sottosegretari e tutti gli altri impiegati subalterni, ma non per questo privi di potere, sarebbe troppo lungo. Le sale di Palazzo Marino ne traboccavano. Dirò soltanto che certe raccomandazioni spalancavano la porta a tutti gli impieghi e che, varcata la porta con un po' di destrezza, si acquistava nell'amministrazione un'autorità pari a quella dei più alti funzionari. Molto deficitario appariva poi il nuovo assetto istituzionale lombardo. Il governo provvisorio rappresentava la sovranità, ma al di sotto non c'erano singoli ministeri, responsabili dei vari settori dell'amministrazione, né c'era una rappresentanza nazionale che esercitasse il potere legislativo. Peraltro, visto che ogni problema concernente la guerra aveva un estremo rilievo per la Lombardia, si convenne di affidare specificamente al conte Pompeo Litta l'incarico di occuparsene. Non si costituì altro ministero, e in verità, se poi le cose militari procedettero in modo sconnesso e fiacco, non si può imputare l'inconveniente a carenza di personale direttivo. Non sembrò sufficiente un ministro della guerra, si inventarono anche un generale comandante in capo dell'esercito lombardo, che non esisteva ancora, un comandante della piazza militare e un intendente per l'organizzazione logistica. Ne va poi dimenticato che anche l'esercito piemontese, in aggiunta al suo ministro della guerra e al re, che era comandante supremo, aveva un generale in capo e una moltitudine di altri generali, e che ognuno di questi capi dell'esercito piemontese e dell'esercito lombardo aspirava a dare alle truppe le direttive che parevano giuste a lui, senza porre mente al fatto che una delle principali esigenze dell'azione bellica è l'unità del comando. E che ciascun capo si circondava degli uomini che per vincoli personali giudicava fidati, e che ciascuno aveva una sua ferma concezione strategica e non si preoccupava per niente di farla collimare con quella dei colleghi, e che gli ordini e contrordini si susseguivano e si incrociavano a ritmo rapido, e che infine le mansioni, anziché essere giudiziosamente distribuite, appartenevano tutte a tutti. Si comprenderà allora facilmente perché si sia tanto penato a organizzare un esercito in un paese in cui tutti gli abitanti, quasi senza eccezione, chiedevano di combattere. Il governo provvisorio si era costituito a Milano da circa 2 mesi, quando si fece la pensata di dar vita a un ministero dell'istruzione pubblica e di nominarne titolare il celebre poeta Berchet, uno degli emigrati del 1821. La scelta della persona era eccellente, ma è lecito chiedersi perché si istituisse questo ministero prima che l'intero apparato amministrativo fosse uscito dal caos. Il bisogno di una riforma dell'istruzione pubblica si avvertiva ben poco, del resto, in un tempo in cui gli studenti e persino i seminaristi erano soldati regolari oppure volontari fra le montagne. Come che sia, i due ministeri, quello dell'istruzione pubblica e quello della guerra, furono i soli a prendere corpo. Il governo mise invece ogni cura nel bloccare lo slancio popolare e chiudere la crisi rivoluzionaria, e il modo in cui si era formato aiuta a comprendere i suoi motivi. Per il resto, quel governo bipartito di repubblicani e monarchici esaurì la sua storia in una sequenza di compromessi tra i suoi componenti che non erano né uniti da un disegno comune né sostenuti da un medesimo principio. Per rendersi vicendevolmente la vita più dolce, i governanti milanesi partorirono quel famoso sistema di imparzialità, grazie al quale la Lombardia si vide soggetta a un potere che non aveva né tendenze monarchiche né tendenze repubblicane. A chi giudicava che un governo non potesse sussistere se non a condizione di essere o monarchico o repubblicano, essi rispondevano che erano al potere soltanto a titolo provvisorio, che il popolo non aveva ancora espresso la sua volontà e che loro stessi volevano restare neutrali per non far pesare sui cittadini il proprio influsso e per non anticipare le future decisioni. Questa neutralità altro non era che il caos. I governanti monarchici di fatto obbedivano alle direttive di Carlo Alberto e si sforzavano non soltanto di stringere attorno a lui la maggioranza dei lombardi, bensì pure di estinguere nel loro animo ogni ardore patriottico e ogni scintilla democratica, così da plasmarli a immagine e somiglianza dei torinesi, in modo che Carlo Alberto di Savoia, accettandoli tra i suoi fedeli e felicissimi sudditi, nulla avesse a temere dal loro carattere e dai loro principi. Il Partito Repubblicano, rappresentato al potere dal Marchese Guerrieri, dal segretario Correnti e da un paio di altre persone, per parte sua, stava a guardare, senza rincrescimento, i molti errori che la frazione monarchica del governo commetteva. Anzi, la aiutava a sbagliare, illudendosi forse di rovinare in questo modo il partito monarchico e costituzionale, e trascurando di impedire che il paese fosse travolto nel suo crollo.